dalle strade bagnate di pianto, una perla tra i denti del tempo e il dolore all'idea di avere perso a 10 anni l'innocenza. Sola, trascinando coraggio, consapevole che non basterà, cercherai, sceglierai ogni giorno come vivere. Questa parte di mondo che cosa ti offre? Quale buona occasione, quale opportunità? Tra i poeti distanti e le filosofie c'è qualcosa che rimane non detto, come un velo tra i tuoi occhi ed il mondo. Questa parte di mondo. Dalle strade bagnate di sangue, trascinato dal vento. L'est negli occhi, nelle tue lacrime, l'infinita dolcezza che mostri guardandomi. Questa parte di mondo che cosa ti offre? Quale buona occasione, quale consolazione? Tra le storie d'amore e le loro bugie c'è qualcosa che rimane non detto, come un velo tra i tuoi occhi ed il mondo. Questa parte di mondo. Quale parte del mondo migliore sarà? Quale buona occasione, quale opportunità? Tra i poeti distanti e le filosofie c'è qualcosa che non ti hanno mai detto. Alza il velo tra i tuoi occhi ed il mondo, questa parte di mondo.